Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro e bentrovati a questo nuovo speciale di Hashtag Autotrasporti, il programma con il quale da un anno ormai, proprio in questi giorni, festeggiamo il nostro primo compleanno. Radio 24 racconta tutto quanto ruota attorno al mondo dei trasporti e della logistica, un comparto cruciale per l'economia del paese. Lo speciale di questa sera è il racconto di un fenomeno economico e sociale che sfioriamo quotidianamente sulle nostre strade, dove mentre vi parlo va in scena l'ultimo atto del cosiddetto controesodo di Pasqua e molti di voi ci staranno ascoltando proprio sulla via del rientro a casa. Stasera, complice il divieto di transito scaduto alle 22, di mezzi pesanti in giro ce ne sono pochi, ma in un giorno o in una notte, diciamo così, normali, tra un sorpasso e l'altro notiamo, ormai da anni, che i tir con targa e insegne straniere sono decisamente più numerosi di quelli italiani. In particolare vediamo sempre più targhe della Romania, della Polonia, della Slovenia, ma anche del Portogallo. In alcuni casi sono trasporti effettuati nel rispetto delle regole nell'ambito dell'attività del cabotaggio stradale. Cos'è il cabotaggio stradale? È la possibilità per un vettore comunitario di effettuare un servizio di trasporti di merci in ambito nazionale all'interno di un altro paese dell'Unione Europea dove è diretto con il suo carico di partenza. Il regolamento del 2009 intende questa attività temporanea e pone una serie di condizioni precise. Il servizio deve avvenire entro 7 giorni dall'ingresso nel territorio e nel corso di questa settimana si possono svolgere al massimo 3 operazioni di trasporto. Negli anni il cabotaggio stradale è cresciuto in maniera costante. L'ultimo dato disponibile, diffuso a febbraio da una ricerca condotta in Francia, indica che nel 2014 in Europa l'incremento è stato del 12% rispetto all'anno precedente. Alla Polonia va il primato delle imprese che erogano questo tipo di servizi e quindi delle tonnellate trasportate. I dati che vi ho appena letto chiaramente si riferiscono ai trasporti compiuti nel rispetto delle regole. Il problema, diciamo così, la realtà quotidiana è che molti dei tir che incrociamo sulle nostre strade aggirano sistematicamente le regole, quindi i limiti dei 3 trasporti di cui parlavamo prima. Il risultato è che negli anni il sistema del mercato, della libera concorrenza, è stato pesantemente condizionato, inquinato dal cabotaggio stradale abusivo, con conseguenze che focalizzeremo nel corso del nostro programma. Pesantissime su vari fronti. Roberto Parillo è un sindacalista belga ed è il presidente della sezione autotrasporto di ETF, European Transport Workers Federation. Così ci spiega su quali basi il cabotaggio abusivo funziona e si diffonde in tutta Europa. Per esempio, un'impresa svolge un'attività per un grande gruppo. Allora, questa impresa, per fare un trasporto si può chiedere più o meno, direi, al 1,60 euro al chilometro. Con questo prezzo l'azienda può pagare tutto quello che deve pagare, ecco, e ha un po' in più. Allora, quando un'impresa lo fa per 0,80 centesimi al chilometro, questo è impossibile. Per farlo non rispetta più le regole del mercato. Allora, non rispettare le regole del mercato cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di pagare, come è stabilito dalla legge, un autista come deve essere pagato, si prende un autista che costa il 60% in meno dell'autista italiano. E come se si fa a prenderlo? Si passa tra certe somministrazioni in altri paesi con società che tante volte non sono società di trasporto ma società di somministrazione, e dunque il trasporto è fatto non rispettando più le regole del mercato e l'impresa che è stabilita lì da 50 o 60 anni perde il mercato e deve licenziare i propri dipendenti. Ecco come funziona un trasporto che non rispetta le regole. A proposito delle ricadute occupazionali indotte da un mercato al di fuori delle regole, l'ultimo dato è stato elaborato alcuni mesi fa e ci dice che tra il 2008 e il 2012 solo in Italia si sono persi quasi 27.000 posti di lavoro. La diffusione del cabotaggio abusivo ha un effetto domino che sfocia nel cosiddetto dumping sociale, cioè dopo una regola ne salta un'altra e il mercato si riparametra su canoni operativi, modalità organizzative e condizioni di lavoro che bypassano i punti di riferimento. riferimento normativi, li aggirano, si adattano ad un sistema che diventa così selvaggio. Vince in sostanza chi è più spregiudicato. Ancora Roberto Parrillo di ETF ci accompagna alla scoperta di questo mondo che, ripeto, sfioriamo tutti i giorni lungo le nostre strade. Tante volte certe imprese, sia italiane, belghe, francesi, tedesche, che aprono una ditta, come dire, su carta in un altro paese. Prendiamo il Portogallo, apre un'azienda in Portogallo, ma lì non ha attività e fa i contratti di lavoro dal Portogallo a autisti che possono anche essere italiani o anche essere residenti in Italia. A questi autisti, al posto di pagare per esempio un stipendio di 2.000 euro netti al mese, ne paga 837 euro lordi al mese, perché è lo stipendio del Portogallo, e il resto lo dà in nero. E dunque fa due operazioni: la prima non rispetta la legislazione sociale in Italia e inquina il mercato, e lo farà a un prezzo del 20-30% in meno del prezzo del mercato. E questa concorrenza sleale viene non tanto da imprese, come dire, polonesi o imprese romene, no, sono, come dire, cami con le targhe polonesi, romeni, della Lituania, del Portogallo, ma sono personaggi che sono lì sul posto. Parrillo ha citato il Portogallo, ai nostri occhi insospettabile rispetto ad altri paesi dell'est soprattutto. Sentiamo cosa succede da qualche tempo a Lisbona e dintorni. Un paese in una crisi come il Portogallo, uno mi può spiegare come il trasporto fa un aumento del 139% in 2-3 anni? Come si può capire? Beh, andando a Lisbona e si prende una piccola stradetta dove con una piccola macchina uno ha delle difficoltà e poi vede che c'è una ditta che è una ditta di trasporto che è stabilita lì. Beh, non è una falsa ditta, e dunque questa ditta ha forse 80 o 100 cami, ma questi cami non sono mai stati una sola volta in Portogallo, sono in Francia, in Italia o in Belgio o in Germania, e lavorano con degli autisti, talvolta sono romeni, talvolta sono polonesi. Il quadro che si va delineando è piuttosto chiaro. Gli equilibri che fino a qualche tempo fa hanno retto il mercato dei trasporti stradali sono completamente saltati. Conftrasporto ha fotografato con i numeri questa rivoluzione, focalizzando l'attenzione su quello che succede in Italia. Secondo questa ricerca, negli ultimi anni la quota di merci entrate nel nostro paese trasportate da operatori esteri è cresciuta del 600% e supera il 47% del complessivo trasportato nell'anno di riferimento. La quota in mano alle imprese italiane arriva faticosamente al 15%, quando nel 2003, pensate, era circa il 35%. Paolo Uge è il presidente di Conftrasporto e ci spiega con chiarezza le conseguenze determinate nel nostro tessuto imprenditoriale e sociale da questo nuovo scenario. Produce una riduzione del versamento dei contributi delle imprese nazionali che utilizzano questo personale, quindi minori contributi in entrata, problemi che si vanno preparando quando questa classe di lavoratori che sta subendo questa situazione vorrà andare in pensione. Il meccanismo è molto semplice: viene assicurato al lavoratore più o meno la retribuzione, la paga in mano, così come recita la direttiva, che è quella prevista dal contratto, ma i contributi vengono versati secondo le regole previste dal paese d'origine di questi lavoratori, che vengono, uso un brutto termine, affittati di fatto alle imprese nazionali. Cosa succederà? Succederà che quando questi lavoratori, che sono italiani per lo più, e vengono spostati di là, vorranno andare in pensione, penseranno di aver maturato a sufficienza i contributi per avere una pensione dignitosa, e così non sarà, perché l'entità del contributo versato in alcuni paesi che sono appena entrati nel sistema europeo sono più o meno il 10%, 15% di quelli che vengono pagati ai lavoratori nazionali, regolari, a cui viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi una bomba sociale che si prepara ad esplodere fra 5-6 anni. Problemi per i lavoratori e oggi di fatto concorrenza sleale e, come dire, stimolare le imprese nazionali che non vogliono perdere competitività a utilizzare questo sistema. Io credo che il governo italiano abbia tutto il dovere di intervenire e il diritto di intervenire in sede europea, perché la norma è una norma comunitaria, questa attività, questo spostamento, questa libera circolazione delle persone di fatto consente questo aspetto. Così, per competere, le imprese sono costrette a macinare chilometri e chilometri con mezzi pesanti incanalati lungo un filo sottile che diventa la linea di confine tra il lecito e l'illecito. Una situazione che chiaramente non può perpetuarsi, non può diventare sistema, né per le imprese, né per i lavoratori, né per l'intero comparto logistico e quindi per l'economia del paese. Ascoltiamo ancora Paolo Ugè, presidente di Conftrasporto. Si sta creando e si sta favorendo la crescita di un'area nella quale l'irregolarità diventa una regola, e questo noi non lo possiamo accettare come paese, come rappresentanti degli imprenditori. Quindi ecco perché nell'accordo che noi abbiamo fatto con il governo per la legge di stabilità, e la legge di stabilità ha inserito questa possibilità, abbiamo introdotto una norma con la quale i lavoratori autisti che operano più di 100 giorni all'estero hanno una decontribuzione dell'80%, questo ovviamente attraverso delle verifiche che per esempio il cronotachigrafo può fornire tranquillamente, onde far fronte a questa situazione di concorrenza sleale che viene applicata non solo da operatori di altri paesi, ma anche da imprese italiane che vanno all'estero per restare sul mercato e utilizzano questi strumenti, cioè l'utilizzo del lavoratore in affitto, e quindi creando una situazione che è una spirale nella quale ci stiamo avvolgendo, e non è certamente una spirale virtuosa, ma è una cosa che danneggia poi tutti. Gian Domenico Protospataro è un funzionario del Servizio Centrale della Polizia Stradale. Ci siamo rivolti a lui per avere i dati relativi ai controlli sul cabotaggio. Ascoltiamolo. I dati relativi ai controlli nello scorso anno mostrano che il fenomeno del cabotaggio è tendenzialmente stazionario. Diciamo, su 1000 controlli complessivi, con 1000 violazioni complessive relative a casi di abusivismo nel trasporto commesso da vettori europei, circa 200 appartengono al cabotaggio, quindi, ed è un valore che si mantiene standard dal 2014 anche nei periodi precedenti. Naturalmente i controlli che vengono fatti, che sono comunque controlli elevati, perché noi abbiamo controllato nello scorso anno complessivamente circa 329.000 veicoli adibiti al trasporto merci, ovviamente buona parte di questi in funzione anche della percentuale presente sul territorio sono italiani, ma al secondo posto sicuramente ci sono tutti quelli dei paesi UE, che sono circa 50.000. 60.000 veicoli controllati, quindi su questi campioni 60.000, 1.000 sono in situazioni di abusivismo e di questi 1.200 sono nel regime di cabotaggio. Questi sono i dati che abbiamo dal punto di vista proprio del controllo. È chiaro che poi ciò che accade al di là dei veicoli che possono essere controllati, questo ovviamente è un fenomeno sul quale grava inevitabilmente anche la casualità nell'accertamento. Ma in quali aree è più diffuso il cabotaggio? Ancora il vicequestore Gian Domenico Protospataro. Il cabotaggio interessa soprattutto le aree a ridosso del sistema degli altri paesi, dei confini altri paesi, quindi nord-est e anche area centrale del nord, quindi Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Queste sono le aree sicuramente più interessate dal fenomeno. Al di là dell'impegno delle donne e degli uomini della Polizia Stradale, l'idea, veicolata dall'esperienza quotidiana, è che l'impianto dei controlli finora non sia stato un deterrente efficace. Da tempo le associazioni degli autotrasportatori chiedono un'azione più incisiva, ma contemporaneamente la carenza degli organici delle forze di polizia è sotto gli occhi di tutti. Sentiamo come è organizzata la polizia stradale su questo fronte. Noi su questo tema abbiamo accordi anche che sono stati anche accordi abbastanza remoti nel tempo, che cerchiamo di mantenere, relativa all'impiego di almeno una pattuglia in ambito provinciale dedicata al trasporto delle merci, questo in quanto possibile nell'ambito di ciascuna giornata lavorativa, e poi ovviamente il numero che è sempre crescente dell'attività svolta in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, con i centri mobili di revisione. Anche queste sono occasioni che poi ora si sono in qualche modo anche integrati attraverso un protocollo d'intesa realizzato col Ministero del Lavoro per poter intervenire anche più efficacemente insieme agli ispettori del lavoro direttamente su strada per poter controllare meglio tutte le situazioni, non solo collegate al fatto documentale o del veicolo, ma anche legate ad eventuali aspetti aziendali o di diritto del lavoro che sono correlati. Da quest'anno c'è una novità piuttosto significativa. Nella legge di stabilità è stato inserito un provvedimento che ribalta il cosiddetto onere della prova. Spetta cioè all'autotrasportatore impegnato in un servizio internazionale fornire la prova documentale del trasporto. Se non è in grado di esibirla e quindi di attestare la regolarità del servizio, scattano sanzioni che, sommando le varie aggravanti, possono arrivare a cifre significative. Ma soprattutto è previsto anche il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Tutto questo sarà efficace per arginare il fenomeno? È presto per stabilirlo, visto che queste norme sono entrate in vigore da poco. Come sentivamo prima, è il nord-est, la macro area dove il cabotaggio abusivo è più diffuso. Sentiamo cosa succede in Trentino. Claudio Comini è il presidente della sezione territoriale di Confartigianato Trasporti. Un dato che si può notare tutti quanti, noi che giriamo sulle autostrade, oggi vediamo che un 80-85% dei mezzi del trasporto che girano in autostrada sono targati esteri, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, tedeschi anche, ma comunque è il mercato dell'est che sta invadendo un po'. Siamo nella zona di confine, li vediamo passare tutti i giorni con dei costi che poi per noi sono insostenibili, perché tra costo del dipendente, le tasse, una cosa e l'altra, noi non possiamo, continuo a dirlo, essere competitivi. Ci vorrebbe un'Europa unita. Io tempo fa mi ero trovato in una concessionaria che c'era un autista rumeno che stava lavorando per un'impresa italiana. Lui diceva che prende 250 euro a mese più 16 euro ogni 100 chilometri, che questo sarebbe anche proibito. E allora, se lei pensa che un autista a noi costa mediamente 3.800 euro al mese, poi se guardiamo quello che paghiamo di tasse in Italia o quello che vanno a pagare all'estero, c'è una netta differenza. L'invasione dei tir stranieri pone anche un problema di sicurezza. Non c'è solo l'allarme terrorismo, anche la criminalità può sfruttare la situazione. In sostanza, su questi mezzi viaggia di tutto. Sentiamo ancora Comini. In un bilico carico di mobili hanno controllato un po' bene, in mezzo c'era un trattore agricolo rubato con un semirimorchio rubato. Anche questo è un problema che esiste oggi. Cosa ci sono su tutti questi bilici che girano? E dato quanto non possiamo controllarli tutti, sono milioni di autocarri che girano tutti i giorni. Il problema è comunitario, ma per combattere il cabotaggio abusivo e il dumping sociale ogni paese ha fatto un po' di testa propria. All'inizio del 2015 la Germania ha introdotto il salario minimo di 8 ore e mezza l'ora anche per i lavoratori subordinati che operano all'interno del territorio tedesco. Una misura che la Commissione europea ha però bocciato aprendo una procedura di infrazione. La Francia ha stabilito il divieto di effettuare il riposo normale settimanale di 45 ore a bordo del veicolo. Recentemente il Belgio ha varato un pacchetto di provvedimenti che porteranno ad una intensificazione dei controlli sui vettori stranieri. Insomma, anche su questo fronte in Europa si va in ordine sparso, quando invece occorrerebbe un approccio comune. Alla Commissione Trasporti di Bruxelles la questione è inserita nel pacchetto stradale, la cui discussione era inizialmente fissata in primavera, ma probabilmente slitterà. Al nostro microfono l'europarlamentare Massimiliano Salini, che fa parte della Commissione, non nasconde le insidie che rischiano di ostacolare un accordo tra i 28. Ascoltiamolo. la Commissione Trasporti e Turismo su questo tema, e non solo su questo, ai noi non è in grado di affrontare come dovrebbe, quindi con una compattezza, una doverosa compattezza tra i Paesi membri dell'Unione, il problema che vede contrapposte due aree fondamentalmente all'interno dell'Europa, l'area centrale e nordica e l'area dell'est, dove vengono applicati prezzi, vengono attuati contratti di lavoro con caratteristiche molto diverse dai contratti di lavoro che conosciamo ad esempio in Italia, in Germania, in Francia e via discorrendo. La battaglia dei paesi dell'est, in particolare della Polonia, che è il primo paese da cui si origina il tema del cabotaggio, fino al problema del cabotaggio illegale, quindi alle conseguenze negative di questo grande spazio su cui dobbiamo lavorare, ecco, il rapporto tra i nostri paesi e i paesi dell'est su questa partita in questo momento non è risolto. Non è risolto, quindi io in questo momento sarei ipocrita se dicessi abbiamo individuato un punto di dialogo, perché si sta trasformando in una sorta di seconda Gibilterra, lì ferma a bloccare i dossier che la incrociano da anni e anni e con poche diciamo possibilità di essere risolta. E ora andiamo in Francia, dove in queste settimane cresce la mobilitazione contro il cabotaggio abusivo. In Bretagna, OTRE, un'organizzazione di piccole e medie imprese, ha organizzato presidi di protesta e pure un censimento per contare i tir stranieri irregolari che circolano nella regione. Una manifestazione nazionale è stata indetta per il 9 aprile. Un'altra organizzazione, FTNR, si sta battendo a livello comunitario affinché si giunga ad un accordo normativo chiaro e condiviso per disciplinare il regime del distacco dei lavoratori, in particolare di quelli definiti altamente mobili come appunto gli autisti. Su questo punto abbiamo intervistato Isabelle Maître di FTNR. L'Europa è attualmente in una situazione di crisi. Bisogna reagire con misure che possano incidere nella politica degli Stati. Per queste ragioni, dovute all'apertura del mercato interno a più realtà politiche, c'è bisogno di una soluzione data dalle realtà che rappresentano i vari settori nei paesi. Per questo motivo, con Conftrasporto, l'anno scorso a gennaio, FTNR ha presentato alla Commissione europea una soluzione al fine di riconoscere e valorizzare una politica a lungo termine attraverso lo statuto dei lavoratori ad alta mobilità, con elementi comuni, la protezione sociale ed il salario minimo. Siamo molto soddisfatti che nella proposta di modifica alla direttiva 96 del 71 relativa al distacco dei lavoratori c'è un alto livello di riconoscimento verso il lavoratore cosiddetto altamente mobile, che è assai diffuso nel settore stradale. A proposito del cabotaggio, FTNR non è d'accordo con l'idea della Commissione europea di arrivare ad un'apertura del cabotaggio. Sostiene invece la necessità di migliorare e rinforzare le misure attuali, in particolare con restrizioni che possano proteggere il mercato nazionale. E c'è un'altra questione importante che si determina in un sistema sregolato nel quale una violazione tira l'altra. È la questione della professionalità degli autisti e della sicurezza. Da parte soprattutto dei vettori dell'est è frequente l'alterazione del cronotachigrafo, il dispositivo obbligatorio su tutti i mezzi sopra le 3,5 tonnellate, che registra la velocità, la distanza percorsa e in particolare i tempi di guida e di riposo. Non rispettarli significa che un autista guida in condizioni psicofisiche non adeguate. Ascoltiamo di nuovo Roberto Parrillo di ETF, European Transport Workers Federation. Qui c'è anche un problema non solo di, come dire, sicurezza nel lavoro per il dipendente, per il lavoratore, c'è una sicurezza per i cittadini di tutti i giorni, ecco, perché un incidente con un veicolo di 40 tonnellate non è una cosa così. Dunque c'è il professionalismo anche degli autisti e del mestiere, e sicuramente è soprattutto un problema di sicurezza a livello anche non solo sulla strada, sul lavoro, ma anche, come dire, per i clienti, per i cittadini di tutti i giorni, ecco. Questo speciale di Hashtag Autotrasporti dedicato al cabotaggio abusivo e al dumping sociale finisce qui. Grazie a Roberta Frisani per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo nell'appuntamento, diciamo così, ordinario il lunedì alle 13.45. Da Andrea Ferro, buonanotte. Hashtag Autotrasporti.